mi chiedo da vecchia come sarò, pelata con tette e culo in giù e della gobba, meglio non ne parlar. Oh my god, nessun pisello più mi farà, chissà chi me la palperà, ne patuage chi mi prenderà, prenderà. Le vampate della menopausa, la badante rumena il mio oro, si fotterà e la tinta non ci voglio pensare. Ricchiona, vecchia mai sarò, depressa, mi succiderò, rugosa, non diventerò meno pausa, le vampate avrò, zoppa, con le stampelle andrò, frigida, mi ammazzerò. Ripenso a quando tutti mi volevano far, quanti soldi che io guadagnavo, ora con l'Inps una pezzente sarò. Le vampate della menopausa, la badante rumena il mio oro, si fotterà e la tinta non ci voglio pensare. Ricchiona, vecchia mai sarò, depressa, mi succiderò, rugosa, non diventerò meno pausa, le vampate avrò, zoppa, con la stampella andrò, frigida, mi ammazzerò. Ricchiona sì, ma vecchia mai, con le scarpe ortopediche. Ricchiona sì, ma vecchia mai, e le pillole per la pressione. Ricchiona, vecchia mai sarò, depressa, mi succiderò, rugosa, non diventerò meno pausa, le vampate avrò, zoppa, con la stampella andrò, frigida, mi ammazzerò. Ricchiona sì, ma vecchia mai, con le scarpe ortopediche. Ricchiona sì, ma vecchia mai, e le pillole per la pressione.